9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, Oscar Giannino vi saluto, vi do un buon mercoledì 27 luglio. È un Oscar Giannino un po' colpito e contrariato dal fatto che mentre i mercati vedono riprendere gli spread sull'Italia e la Spagna, e mi sembra che i mercati non sbagliano nella loro interpretazione dell'euro accordo di giovedì della settimana scorsa, che si traduce così: quelle misure di salvataggio, tradotto, il totale degli aiuti, sostegni e delle garanzie dato alla Grecia eccede il totale del debito pubblico greco. Il debito pubblico greco è a 355 miliardi di euro, il totale del piano, questo è il terzo round degli aiuti alla Grecia, va a 370 miliardi di euro. E quindi questa misura, tradotta così, i mercati come la leggono? Questo tipo di intervento si applica ai paesi piccoli come la Grecia, il Portogallo, non si può applicare ai paesi grandi, membri dell'euroarea in difficoltà come la Spagna e a maggior ragione l'Italia. Ecco perché i mercati hanno ripreso a far salire le aste, gli spread dei titoli decennali del debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco. In agosto ieri il Tesoro annulla le aste per evitare tensioni, perché c'è una buona situazione di cassa, però poi a settembre, tra agosto e settembre, dovevamo piazzare 66 miliardi di euro di BTP in scadenza. Se a questo si somma la tensione crescente del mancato accordo per il tetto sforato al debito pubblico americano il 2 agosto, ecco che i mercati ballano e balleranno. Ma che di fronte a questo ci siano letture, opinioni, come quella oggi sul Corriere della Sera espressa da Giuliano Amato, una delle personalità politiche e istituzionali che più ha fatto in Europa per la dottrina dell'antitrust in Italia, introducendolo, e poi ricordato da tutti per il governo del 92, la manovra straordinaria per reggere la lira, dica che di fronte a tutto questo la risposta migliore resta una patrimoniale per abbattere di qualche decina di punti il debito pubblico italiano, perché poi per il resto si eccede sui costi della politica e su tutto il resto, e anche liberalizzazioni, cosa volete che possano portare? Ecco, io allora mi preoccupo davvero, perché c'è una distonia di fondo tra la gravità che resta seria della condizione italiana di una crescita che non decolla a fronte di ciò che lo Stato ci chiede ogni giorno, e di una spesa pubblica corrente che nei 10 anni alle nostre spalle ha continuato a galoppare, e che la spesa pubblica totale, ricordo, è al 52% del PIL. C'è una distonia crescente tra ciò che le forze dell'economia produttiva italiana avvertono della sostenibilità di questa condizione e invece le terapie concrete che vengono dalla politica. E posso aggiungere, ma questo riguarda me, nel pieno rispetto della persona di Giuliano Amato, non solo quelle che il governo ha posto in essere, ma anche quelle sulle quali abbiamo detto molte volte i nostri motivi di delusione profondissima, ma anche, se questo è ciò che ci aspetta, cioè una patrimoniale, una nuova mazzata, ciò che sembra essere dietro l'angolo. E allora su questo sfondo abbiamo deciso di dedicare la puntata a un tema forse poco estivo, più da ripresa settembrina, ma tanto per far capire che non bisogna mollare la presa, che bisogna tenere gli occhi e le orecchie attenti ai mercati, che su questo la rapidità delle risposte della politica è una delle condizioni per far stare un paese oggi nel mondo globale. Non i vecchi tempi di mesi e mesi di attesa, di manovre macerate, di polemiche sulle tangenti, eccetera, eccetera. La realtà è che la politica deve essere in condizione di assumere decisioni in tempi tali che i mercati reagiscano in tempi rapidi. La genialità dei tedeschi in questo anno e mezzo in cui l'Europa ha ballato è stata quella di sostituire e gli organi politici che hanno tempi lunghi e grande discrezionalità, che erano i guardiani dei criteri di Maastricht su deficit e debito, e che quindi finivano poi spesso per rinviare decisioni, per annacquarle, e le hanno annacquate e rinviate, badate bene, quando Francia e Germania per prime avevano sforato il tetto dei deficit del 3%, e loro le hanno sostituite invece con i mercati, che agiscono come maglie tutti i giorni, ora per ora e minuto per minuto, perché sono i mercati che hanno capito il messaggio dei tedeschi, che era questo: di qui al 2013, cari mercati, iniziate a distinguere il premio al rischio, che è diverso per diversi paesi, per diverse situazioni degli euromembri. E così gli euromembri l'hanno finita di incamerare il vantaggio competitivo di avere bassi tassi di interesse comune e quindi minor onere sul debito pubblico, magari destinando tutto ciò che non spendevano in tassi di interesse sul debito a spesa corrente, come ha fatto l'Italia, che ha aumentato la spesa corrente di 8 punti di PIL quando potevamo risparmiarci esattamente. Questo era il grande vantaggio di essere entrati nell'euro in un decennio. Allora, di fronte a questo ci siamo imbattuti lunedì 25 luglio sul quotidiano La Stampa, diretto da Calabresi, su una pagina in cui era presentato un sondaggio sulle imprese e la politica, con un titolo che parla da solo, perché il titolo della pagina della Stampa era Il divorzio tra impresa e politica. Io voglio qui, in apertura, prima di presentarvi gli ospiti e di chiedere le loro opinioni sui numeri di questo sondaggio, sulle tendenze in atto, su ciò che avvertono con le proprie antenne del stato d'animo delle imprese nei confronti di ciò che la politica ha fatto, fa e promette di fare rispetto al deterioramento della posizione italiana in una condizione di bassa crescita permanente, vi leggo solo alcune delle risposte e come si sono evolute le risposte negli ultimi anni alle stesse domande. Questo naturalmente è un campione rappresentativo delle imprese italiane. La domanda generale era: se dovesse valutare l'azione dell'attuale governo, che voto darebbe da 1 a 10 a quanto finora realizzato nelle seguenti materie? Politica estera: nel 2005 il voto era un 6,8, nel 2007 diventava un 3,4, nel 2009 tornava un 7,4, nel 2011 4,3. Federalismo fiscale, uno dei temi su cui identitari di questo centrodestra, e siamo reduce negli ultimi mesi dai decreti attuativi della delega in materia di federalismo fiscale. Nel 2005 la risposta era un 4,9, nel 2007 era scesa a 3, nel 2009 si è alzata a un 6,5 abbondante, nel 2010 è scesa a un 4,7, nel 2011 è scesa a 3,9. Gestione della crisi: la gestione della crisi nel 2009 6,8, quindi buon giudizio, 2010 5,9, 2011 crollo 3,7. Energia, ve la faccio breve: nel 2011 3,7, beh, l'impatto del referendum è evidente. Cultura 3,6, liberalizzazioni, qui eravamo nel 2007 a un 4,6, poi diventa un 5 qualcosa nel 2009, 4,2 nel 2010, 3 nel 2011. Immigrazione 4 nel 2005, 2 nel 2007, quasi 5 nel 2009, 3 nel 2011. Infrastrutture 4,8 nel 2005, 2 nel 2007, quasi la sufficienza nel 2009, accelerazione degli stanziamenti annunciati, 4,7 nel 2010, 3 nel 2011. Credito alle imprese 3 nel 2011, pubblica amministrazione 3 nel 2011, studi di settore, qui siamo sempre a voti bassissimi, si parte da un 3,6 nel 2009 che diventa un 2 qualche cosa nel 2010 e resta un 2 qualche cosa nel 2011, giustizia 2,5, fisco si va da un 4 nel 2005, 5 nel 2009, scende al 3,5 nel 2010 e siamo al 2,5 nel 2011. Eccoci qua, questa è la fotografia di una delusione molto forte. Io innanzitutto vi presento gli ospiti. Abbiamo con noi Daniele Marini, che è l'autore della ricerca e che poi l'ha commentata anche sulla Stampa. Daniele Marini insegna all'Università di Padova ed è inoltre direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, che è uno degli osservatori che con più profondità, estensione di ricerche e oggettività di dati ci ha aiutato a comprendere, a fotografare meglio, ad approfondire l'evoluzione del Nord-Est, che è diventata la parte più manifatturiera del nostro paese. Io lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno a Daniele Marini. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Marco Alfieri, collega della Stampa, che conosco da un bel po' di anni. Buongiorno a Marco Alfieri. Buongiorno a voi. Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto Ricerca Aster, editorialista del Sole 24 Ore, uno dei più attenti intrecciatori di come l'identità, il radicamento delle imprese, l'organizzazione a rete delle imprese nel tempo è cambiato in Italia, facendone quindi aggregati di autoresistenza rispetto a ciò che non funziona nell'amministrazione pubblica, nelle regole, nel fisco del nostro paese, e contemporaneamente con un occhio e un orecchio attento sempre a vedere come cambiano gli stili anche dei consumi e le domande degli italiani, non solo delle imprese, perché Aldo Bonomi ha sempre unito un'alta cifra civile ai dati dell'economia e delle imprese. Buongiorno ad Aldo Bonomi. Buongiorno a voi. Allora Marini, questa accelerazione della sfiducia e della delusione, visti incrociati i dati e visti meglio con l'occhio dello scienziato e non solo con quelli del divulgatore Giannino, che cosa testimoniano? C'è una crisi in accelerazione rapida sulla fiducia delle imprese e della politica? I dati testimonierebbero che nel giro di pochi anni, perché dall'avvio del secondo governo Berlusconi ad oggi, si può notare, si può vedere anche da altri dati di questa ricerca, come ci sia stato un vero e proprio precipizio anno dopo anno. Cioè, se a un anno dalla sua elezione il governo complessivamente aveva una fiducia che era quasi del 60% della platea imprenditoriale italiana, l'anno scorso era arrivato al 33%, quindi aveva già dimezzato, aveva già consumato, diciamo così, la luna di miele e la fiducia da parte degli imprenditori, e quest'anno arriva complessivamente a una fiducia del 13,6%. Se compariamo questo dato con quello affidato al governo Prodi nel 2007, cioè nell'anno poco prima della sua caduta, quella fiducia era al 17%. Poiché monitoriamo da 10 anni ormai le imprese italiane sotto questi profili, diciamo che quest'anno è l'anno in cui è più basso il livello di caduta di fiducia da parte degli imprenditori, che poi è testimoniato, come lei ha ricordato, diciamo così, dalla pagella che viene data alle diverse azioni realizzate dal governo in questi anni. Però vorrei sottolineare un aspetto, cioè quello che a me risulta non soltanto dai dati, ma conoscendo il mondo delle imprese, girando le loro assemblee e sentendo che cosa raccontano. C'è effettivamente una sorta di divorzio dalla politica, che però a me non risulta essere analogo a quello che ci fu 20 anni fa al tempo di Tangentopoli. Cioè la cifra mi pare diversa, e se posso vorrei esprimere in questi termini. Mentre 20 anni fa diciamo il divorzio dalla politica era netto, cioè c'era una sorta di alterità, per cui i soggetti imprenditoriali in particolare si erano candidati a guidare, diciamo così, il paese, dicendo sostanzialmente che la politica si erano visti i danni generati dalla politica, Tangentopoli, e quindi la politica era delegittimata a guidare il paese, che aveva bisogno di uscire dalla crisi, dalle difficoltà e riemergere, e quindi l'economia, gli imprenditori in particolare, sono, per così dire, scesi in campo assieme alle altre forze sociali, candidandosi appunto alla guida del paese. A 20 anni di distanza, complice ovviamente anche la crisi, la gestione della crisi, le difficoltà che attraversa il sistema economico, non siamo al punto di partenza in realtà, però questo, diciamo, come è stato titolato nel giornale dalla Stampa, il divorzio ci segna un momento nuovo, diverso, e cioè la mia netta sensazione è che ci sia la consapevolezza che c'è invece oggi bisogno di politica, cioè c'è un distacco dalla politica, da un certo tipo di politica, disattenta a quelli che sono i fenomeni reali del paese, e alle necessità di un paese che deve competere a livello mondiale, nella competizione internazionale, e c'è quindi bisogno in realtà di una politica, però di una politica che faccia bene il proprio mestiere. Quindi in questa valutazione non intravedo come 20 anni fa un'autocandidatura alla guida del paese, ma invece un forte richiamo al bisogno di avere una politica che sia in grado di regolare lo sviluppo, non in modo ovviamente deterministico, ma che crei le precondizioni per lo sviluppo. Tant'è che in altra parte della ricerca, domandando agli imprenditori quali sono a loro avviso le cause di questa lenta ripresa e guardando appunto soprattutto alle istituzioni e alla politica, ritornano a sottolineare i problemi che da decenni attanagliano il nostro paese, ovvero l'eccessivo peso fiscale, le tasse da un lato, e l'eccessivo peso della burocrazia. Quindi, come dire, basterebbero anche solo due piccole, tra virgolette, leve per far ritornare una fiducia nei confronti della stessa politica, cioè basterebbe vedere che vengono realizzate alcune cose, le liberalizzazioni una su tutte, insomma. Ecco, quindi c'è una cifra diversa, ecco, questo mi pare di poter sottolineare in questo momento. Lei dice nel divorzio non c'è ancora maturato, o almeno evidente, la volontà di dire vabbè, fatevi tutti da parte, tutti a casa, ci pensiamo noi, insomma, che in qualche misura era più tangibile allora. Io devo chiedere a Bonomi che impressione ha. Io aggiungo una cosa che mi ha molto colpito nella giornata di ieri. Il 25 luglio è stata depositata dalla Corte Costituzionale una sentenza, la sentenza 247 in materia fiscale, che dal mio punto di vista, in un paese, direbbe qualcuno, normale, avrebbe dovuto ieri registrare un'insurrezione civile, non dico mica nelle strade, nel pieno rispetto, voglio dire, del codice penale, ma dico un'insurrezione di indignazione, di protesta, innanzitutto dell'informazione, poi dei cittadini e dei contribuenti tutti. Invece c'è un solo giornale, Sole 24 Ore, che ne ha parlato, tutto il resto niente, silenzio. Perché dico questo? Mi ha molto colpito perché è una sentenza nella quale la Corte Costituzionale conferma la piena costituzionalità di una norma e un decreto legislativo del 2006 per il quale lo Stato si è dato la possibilità di riaprire tutte le volte che vuole i termini per gli accertamenti fiscali a carico dei cittadini, nel senso che basta che ci sia l'elevazione di una ipotesi di notizia di reato su un accertamento fiscale, e tenete ben conto che l'Agenzia delle Entrate e l'apparato tributario dello Stato non lavora sulle ipotesi di reato perché per quello ci sono le procure, ma basta mettere questo, anche se contestato in termini successivi rispetto a quelli previsti dalle norme per un accertamento tributario, ed ecco che i termini si riaprono. Allora, che uno Stato si dia attraverso un proprio atto legislativo la facoltà illimitata di riaprire i termini che sono delle garanzie nei confronti dei cittadini e dei contribuenti, sollevando ipotesi di reato, e quindi tenga indefinitamente aperta la possibilità di perseguire il cittadino in questo, quando, se il cittadino sgarra di 5 secondi ogni dichiarazione del dovuto all'Agenzia delle Entrate, scattano immediate altissime sanzioni da pagare, è una piena misura della condizione nella quale viviamo nel nostro paese e della condizione di un diritto in cui lo Stato fa per sé norme, che si guarda bene anche 100 volte di applicare, 100 volte in meno di dare come diritti ai propri cittadini, eppure silenzio assoluto. Lo dico perché è di queste cose che vive poi l'imbarbarimento insopportabile delle condizioni economiche del nostro paese, e in questo caso è un danno per le imprese, ma non solo, è un danno per tutti, per i lavoratori autonomi, per i lavoratori dipendenti. Eppure questa cosa passa oramai nella totale impossibilità di essere percepita dagli italiani. Allora, dico questo perché ieri mi sono veramente chiesto se sono io il matto di turno. Forse sì. Bonomi, la sua impressione è che questo divorzio, questa delusione, in che termini sia rispetto al 92? È paragonabile? Io non credo mai che la storia si ripeta. Però lei che pensa, Bonomi? Ma io credo di essere abbastanza d'accordo con Marini, per usare la terminologia, diciamo così, delle separazioni civili, che siamo di fronte più a una separazione che a un divorzio, e su questo sono abbastanza d'accordo. Credo anche che le cose che lei ha citato adesso tendono ad aumentare e a portare verso una causa di divorzio e non di separazione, ovviamente, nel senso che quando la statualità, quando la dimensione della politica ritiene di poter estendere le proprie regole in maniera indifferente e invece chiede al soggetto delle imprese un rispetto puntuale e preciso, è ovvio che la rivolta contro le ganasce di Equitalia andrà avanti, e questo produce ovviamente maggior divorzio e rimanda ad alcune immagini di 20 anni fa. Però attenzione, io credo che due osservazioni. La prima è che a questo ottimo sondaggio e ricerca avrei aggiunto una analisi introspettiva dentro il capitalismo stesso, se mi è permesso, perché capisco perfettamente che se noi pigliamo i tre grandi cicli che sono avvenuti in questi vent'anni, il passaggio dal fordismo alla crisi dal fordismo al capitalismo molecolare manifatturiero del proliferante nord-est come modello della fondazione nord-est di Marini su cui indagare e capire, e però attualmente oggi siamo anche nella fase del capitalismo delle reti, e quindi ad esempio avrei aggiunto alcune domande magari un po' più problematiche dentro il capitalismo stesso, nel senso che mi sarei chiesto come il tessuto manifatturiero reagisce al deficit di modernizzazione del capitalismo delle reti. Intendo dire, molte di quelle domande che sono lì, tipo ad esempio le energie, le infrastrutture, rimandano a soggetti del capitalismo, l'ENI, l'ENEL, le autostrade, non sono soggetti estranei a questo meccanismo qua. Che hanno, lei dice, una responsabilità evidente. Beh, hanno una responsabilità evidente nell'intreccio con la politica, diciamolo molto chiaramente, però ad esempio è chiaro che un capitalismo che non ha reti adeguate per competere nella globalizzazione, dalla finanza alle reti logistiche, alle reti, virgolette, energetiche, eccetera. Poi capisco benissimo che la risposta è non possiamo costruire i rigassificatori e quindi siamo in deficit. Perfetto. Ma attenzione, qui c'è un ragionamento sull'evoluzione del nostro capitalismo, e quindi io dico agli imprenditori, occupatevi ovviamente, certamente, di, virgolette, separarvi dalla politica, di criticare la politica, ma guardate anche dentro la vostra capacità di modernizzazione e di reggere le sfide del capitalismo adeguato all'epoca rispetto a questo. Questo mi pare un primo punto su cui ragionare, perché non è solo cercando il capro espiatorio che si risolvono i problemi, lungi da me l'idea di voler difendere la casta, ma non c'è dubbio che un soggetto dinamico e responsabile del sistema paese è anche il sistema delle imprese, il suo sistema della rappresentanze e il modo di andare. Mi pare di capire che nelle, virgolette, liberalizzazioni incompiute, nelle privatizzazioni incompiute, in un eccesso di capitalismo relazionale in questo paese, che non è capitalismo di mercato rispetto alle regole proprio del capitalismo delle reti, mi pare che ci sia un deficit profondo, ma da cui il capitalismo non è estraneo. Eccoci tornati in studio, correzione dovuta da parte di un ascoltatore che mi fa notare al nostro numero per gli sms, e sì, non solo sulle 24 ore, anche Italia Oggi ha segnalato la cosa in prima pagina, giustissimo, correggo, non vorrei che sembrasse che non leggo la stampa concorrente del gruppo sulle 24 ore. Il punto è che anche in quel caso stiamo parlando di un organo di informazione tecnico che si rivolge a un pubblico di specialisti. Il problema è che la stampa generalista neanche si rende conto di sentenze come quelle, le considera delle tecnicalità fiscali, quando invece intervengono su un confine di fondo nel rapporto tra le libertà del cittadino, le garanzie fondamentali del poter fare reddito, impresa, risparmio, rispetto a ciò che lo Stato pretende per sé, variando, interpretando, modificando ed estendendo tutti i termini delle garanzie a proprio vantaggio, mentre le garanzie in un ordinamento liberale sono a tutela del cittadino contro l'eccesso di potere dello Stato. Da noi l'ordinamento, e ripeto, la gravità è che la Corte Costituzionale coonesti e confermi appieno questa lettura, le garanzie da noi sono solo a tutela dello Stato etico, solo a tutela dei suoi andamenti di cassa, solo a tutela della sua esosità, solo a tutela dei suoi sprechi, solo a tutela della sua intollerabilità di calpestare ciò che è la certezza del diritto. Io, se fossi stato direttore di un giornale generalista, ci avrei fatto il fondo io, senza entrare tanto nel tecnico, ma dicendo, perdonate la durezza del mio giudizio, me ne assumo la responsabilità, vergognatevi signori giudici della Corte Costituzionale, perché se lo Stato deve essere tutelato nei suoi saldi finanziari, non è calpestando la certezza del diritto che noi serviamo lo Stato. Noi facciamo dello Stato un concussore e un ladro e diventiamo schiavi di ciò che non può essere difeso. Questo è ciò che avrei scritto io sulla prima pagina di un giornale generalista. E sono convinto non di farlo a nome degli evasori arrabbiati, ma di farlo in nome del riavvicinamento necessario tra ciò che va inteso come bene pubblico e una migliore gestione delle risorse della nostra economia. Se stiamo parlando di allontanamento delle imprese dalla politica, di delusione che è evidente non solo nelle imprese, è evidente in ogni sondaggio, qualunque sia il campione di italiani assunti nel sondaggio per esprimere le loro opinioni verso la politica, e perché questa separazione assoluta tra le risposte che vengono dalla politica e dalle istituzioni e la condizione economica che viene toccata con mano ogni giorno da tutti gli italiani, qualunque sia il loro tipo di attività e il loro reddito, è clamorosa, e negarla o attribuirla da parte della politica al fatto degli odi contrapposti è una parte, ma una parte molto piccola della verità. L'altra parte è che la politica o è incapace di capire questi fenomeni o non è in grado di e non vuole soprattutto assumere le decisioni giuste. Dopodiché io appunto ho chiesto ad Aldo Bonomi di fare anche il controcanto, perché le classi dirigenti sono classi dirigenti e hanno responsabilità a volte condivise in tutti i propri ambiti, quindi è evidente ed è vero che le forze del capitalismo italiano hanno, io la penso come lui, hanno delle responsabilità belle serie sul fatto che poi non funzionano se non per accordi non concorrenziali bei pezzi del mercato italiano. Marco Alfieri, tu hai visto negli ultimi anni, soprattutto con un'attenzione per tutta la fascia pedemontana dal nord-ovest al nord-est, evolvere le richieste e le delusioni dell'impresa. Che impressione ti ha fatto il sondaggio che ci ha presentato Daniele Marini all'inizio? Ma intanto va detto che, come giustamente dicevi tu adesso, fa parte, cioè senza separare, diciamo così, la classe imprenditoriale da il popolo italiano largamente inteso, è un trend di crepuscolo di questo governo che tocca tutte le fasce sociali, produttive, eccetera, eccetera. Quindi diciamo così, iniziamo intanto a incasellare questo dato dentro un generale, diciamo così, tracollo di consensi di questo governo. Sul tema più specificamente imprenditoriale del blocco di produttori, beh, qui io credo che insomma bisogna anche essere onesti e citare quello che è stato finora nel nostro dibattito il comitato di pietra, cioè nel dualismo, nella dicotomia tra separazione o divorzio, io inserirei l'elemento quasi psicologico del tradimento di un amore, perché è ovvio che in questo quindicennio c'è stato al governo del paese o comunque pesantemente sulla scena politica un personaggio ingombrantissimo come Silvio Berlusconi, che diciamocelo chiaramente era il capo degli imprenditori, sceso in campo in politica, per tornare al ragionamento iniziale di Marini, quindi un grandissimo investimento psicologico e oserei dire quasi antropologico del piccolo e medio imprenditore italiano sulla figura carismatica di Silvio Berlusconi. Beh, dopo 15 anni ci sono stati tanti rovesci, ci sono state delle crisi, c'è stato l'11 settembre, quindi attenzione anche a collocare, diciamo così, questa delusione dentro uno scenario geopolitico ben preciso, insomma le riforme promesse, la famosa rivoluzione liberale, torniamo al programma scritto da Berlusconi e Antonio Martino nel 94, di quella roba lì in Italia si è visto pochissimo, dal taglio delle aliquote alla sburocratizzazione, al taglio della spesa pubblica improduttiva, alle infrastrutture, alle liberalizzazioni, di quelle cose lì si è visto pochissimo in Italia, e quindi come dire la delusione è ovviamente fortissima nei ceti produttivi che nel decennio dei 90, quando c'era il mito dell'autosufficienza, ci si faceva quasi vanto di poter fare a meno della politica, perché c'era una sorta di autogestione. Nell'ultimo decennio, con la situazione cambiata, l'ingresso nella moneta unica, il problema della globalizzazione, quindi il campo di gioco che si allarga immensamente, c'è necessità che la politica faccia delle cose e rimuova gli ostacoli alla competizione. Beh, in quest'ultimo decennio, diciamo così, dalla famosa assemblea di Confindustria di Parma del 2001, quando Silvio Berlusconi disse: il vostro programma è il mio programma, ma che ci fu la grande reinvestitura a Silvio Berlusconi, beh, in quest'ultimo decennio in cui il governo Berlusconi ha governato per 8 anni su 10, certamente la delusione è stata fortissima, e quindi davvero c'è un tratto psicologico di amore tradito. Oggi senti i piccoli imprenditori dalla marcia silenziosa ma tangibile di Treviso, dell'imprenditore di Treviso di qualche settimana fa, all'assemblea di Confindustria Vicenza, che non ha voluto sul palco politici per la prima volta. Insomma, c'è anche una rottura di un protocollo diplomatico, dove le Confindustrie locali tendevano sempre, come dire, a edulcorare un pochino sperando che la politica seguisse. Beh, c'è una rottura anche di linguaggio, di critica verso questo governo e verso Silvio Berlusconi e il blocco del forzaleghismo, perché poi c'è anche il pezzo leghista che è importante soprattutto nella fascia pedemontana in termini di rappresentanza. Beh, c'è una grande delusione, appunto la delusione per un amore tradito, tanto più dopo la crisi in cui le letture codificate distrettuali vengono superate, perché dopo la crisi, diciamo così, dentro ogni comparto produttivo bisogna metterci la testa e vedere, perché ci sono imprese medie internazionalizzate che funzionano bene, che hanno agganciato l'impresa mondiale, che si trascinano un pulviscolo di indotto che funziona, e poi il grande corpaccione delle piccole imprese che lavorano sul mercato domestico, che fanno fatica perché appunto l'Italia è un paese che non ha i consumi stagnanti e non cresce da 10 anni, e quindi è anche un'economia resa più difficoltosa, che richiederebbe un ruolo della politica diverso, più proattivo, e che invece non si vede. L'ultimo anno e mezzo il governo ha fatto altro, si è avvoltolato in una serie di problemi interni che nulla hanno a che vedere con i problemi dell'impresa e con l'accelerazione della crisi internazionale. Quindi io credo davvero siamo davanti a un amore tradito, e come tutti gli amori traditi ci sono rinculi molto, molto forti, ovviamente. Allora, io contavo che fosse citato anche la recente assemblea di Confindustria di Vicenza, ed ecco, infatti, per questo avevo pensato di chiamare, ed è qui con noi, il presidente di Confindustria di Vicenza, Roberto Zuccato. Buongiorno, presidente. Buongiorno, dottore, buongiorno a tutti. Allora, a lei i dati del sondaggio di Daniele Marini sul divorzio tra impresa e politica, e soprattutto avendo la responsabilità di una delle più importanti associazioni territoriali nel nord-est di Confindustria, recentemente reduce dall'assemblea senza politici sul palco, come ricordava Marco Alfieri. Ecco, questa ricerca e lo stato d'animo che coglie, in che cosa si può sintetizzare? In che cosa è analogo o diverso l'atteggiamento di delusione delle imprese da quel terribile anno che fu il 92, poi il 93, 94? Secondo lei? Ma guardi, la ricerca che ha fatto appunto il professor Marini ha confermato quella che era poi la ricerca che io avevo commissionato alla società Demos di Ivo Diamanti il mese prima della mia assemblea, proprio per avere degli argomenti certi sulle quali poi andare a fare un appoggio importante a quelli che erano le mie proposte. E da qui ne è risultato un dato importante e nuovo, non imprevisto, però nuovo per la dimensione, perché rispetto per esempio all'anno precedente, l'anno scorso, c'è stata una calata della fiducia nel governo centrale e nello Stato centrale e nel governo che è stata importantissima e ha segnato in questa realtà sociale imprenditoriale che è tradizionalmente vicina alle forze politiche della maggioranza. Questi giudizi espressi nei confronti sono stati duri, perché risentono di cosa? Secondo me risentono di una grande delusione, una delusione che viene da questa classe politica che ha in questo ultimo periodo soprattutto ha avuto un atteggiamento, ha avuto una condotta che si è allontanata sempre più da quelle che erano le esigenze di noi imprenditori. Io nell'assemblea dell'anno scorso avevo un refrain che diceva: da soli non ce la possiamo fare, perché facevo un richiamo forte alla politica, perché noi abbiamo bisogno di politica, di quella con la P maiuscola fatta bene, ed è passato un anno da quell'appello e gli imprenditori vicentini invece oggi si sentono più soli e delusi dalla classe politica, si sentono, direi, qui nel nostro territorio periferici rispetto alla politica. Perché c'è un abisso tra quella che è la nostra agenda e l'agenda della politica. E quindi questo raffreddamento è stato la cosa che mi ha colpito di più e sulla quale ho voluto poi porre l'accento durante la mia assemblea, per cercare di fare un richiamo alla politica. Noi abbiamo bisogno della politica, non è che vogliamo sostituirci alla politica. Certo che per poter rilanciare le nostre aziende, per poter oggi essere presenti su questi mercati che sono diventati lontani, che sono diventati molto più difficili da affrontare e da intercettare, perché non più disponibili ad acquistare prodotti magari di livello medio, con i quali nel dopoguerra, negli anni 70 in avanti, siamo riusciti a creare questa economia incredibile che è l'economia del nord-est, e siamo riusciti a servire paesi a quel tempo magari un po' più vicini e dove era anche più semplice per cultura, per mentalità affrontarli. Oggi i mercati che tirano, i mercati che hanno sviluppo sono quelli lontani, lontani non solo geograficamente ma soprattutto culturalmente, e dove in questi mercati il prodotto tradizionale viene prodotto in loco, quindi abbiamo bisogno di fare grande innovazione, grande ricerca e capacità poi di andare a distribuire i prodotti sui mercati. Per fare questo abbiamo bisogno però di un sistema paese che funzioni. Noi non abbiamo mai chiesto protezione e aiuti di Stato, chiediamo semplicemente che ci vengano create le condizioni per rendere competitive le nostre imprese, e quindi quello che è già stato anche detto, un fisco meno pressante, una burocrazia che è insostenibile, che ci soffoca, le liberalizzazioni, tutti argomenti già trattati che però sono fondamentali. Noi ci troviamo ad affrontare invece dei mercati e ci sentiamo assolutamente soli in tutto quello che è lo sviluppo della nostra imprenditorialità. Allora, un solo dato di quelli che a cui la politica secondo me dovrebbe buttare l'occhio. Ieri, dati trimestrali di Deutsche Bank, quindi abbiamo il semestre Deutsche Bank, importante banca tedesca, la sola Deutsche Bank ha disintermediato titoli pubblici italiani in questo primo semestre del 2011 per oltre 1 miliardo di euro. E per tutelarsi dai rischi sul deprezzamento del valore nominale dei titoli che deteneva per effetto dell'aumento degli spread, come sapete, più sale il tasso di interesse, più cade sul mercato secondario, se ve ne volete disfare prima della scadenza, il valore del titolo che avete rispetto alla parità 100 del nominale, di cui prenderete il pieno rimborso solo alla scadenza del prestito fatto allo Stato, se lo Stato ve lo rimborsa, è ricorso massicciamente ai CDS. Ecco, allora, se Deutsche Bank fa questo nei confronti dell'Italia, la politica dovrebbe capire che il ballo degli spread è ben lungi dall'essersi esaurito. Sentiamo rapidamente come la pensano due nostri ascoltatori. Cominciamo con Giuseppe, che ci ha chiamato da Grosseto. Prego, Giuseppe. Buongiorno, prima di tutto un piacere parlare con lei, in quanto una persona che crede in qualcosa, e oggi come oggi, chiunque creda in qualcosa mi ispira simpatia. Grazie. Sì, anche se il suo credo purtroppo era quello che avevo anch'io e non ce l'ho più, ovvero il mercato. C'è un credo minoritario e per il momento vediamo quanti schiaffi prenderò ancora. Comunque andiamo al dunque, Giuseppe, che ne pensi? Non è minoritario, Cecili. E comunque niente, volevo dire soltanto una cosa. Lo scollamento tra imprenditoria e politici, io direi che dopo 20 anni di imprenditocrazia, direi che sarebbe anche un po' il caso di allontanare la politica dall'imprenditoria, insomma, perché c'è stata un'orgia veramente schifosa in questa Italia, cioè non si capisce più gli imprenditori che fanno i politici che picchiano i giudici che vorrebbero fare i legislatori. Cioè, lei dice in fondo la separazione è giusta, è meglio che ci sia. Sì, io guardi, io come però lei, qui abbiamo il problema della separazione tra un ex imprenditore Berlusconi e la politica, se vuole, ma identificare in quel governo ciò che volevano le imprese, non lo so, le imprese non hanno fatto altro che chiedere in maniera crescente robe che il governo gli ha risposto picche. Però capisco il suo punto, che secondo me è una delle parti che spingono molti italiani poi a guardare con simpatia chi poi propone patrimoniali e così via, perché dice in definitiva che volete, Berlusconi è lui che quando diceva il mio programma è il vostro programma si beccava i vostri applausi, cari imprenditori pensateci bene, questo lo capisco Giuseppe, e questo tra l'altro è uno dei grandi punti di equivoco oramai che vanno sciolti secondo me dell'attuale governo, perché finisce per non esserci peggior nemico di colui il quale in nome dei principi che si condividono becca i voti per quello e poi fa per tanti anni l'esatto opposto, perché rende meno credibili esattamente i principi di chi crede e indica in altri paesi il modello in cui si cresce di più con migliori servizi pubblici, avendo meno Stato e regole amministrative meno invasive, meno partiti che comandano in migliaia di imprese locali che fanno servizi pubblici e meno parentopoli e affitti pagati per tutti. Ecco, questo è il punto, perché il problema è che se chi becca i voti con questi principi poi fa qualcosa di molto diverso, innanzitutto essere meno credibile sei tu che continui a crederci, e questo è uno dei punti più delicati del confronto culturale di chi la pensa come noi rispetto all'eredità di questi 17 anni. Gigi da Padova, prego Gigi. Buongiorno dottore, buongiorno, sono contento anch'io di parlare con lei. Lei ha anticipato un attimo quello che io le volevo dire. Lei si figuri che io sono uno di quelli che si è trovato nel collegio a votare Calearo, perché io ho votato per il Partito Democratico e ho ancora il cuore che sanguina e devo ancora perdonare alla mia classe dirigente questa cosa qua, perché è successo quel cortocircuito esattamente che ha detto lei, insomma. Noi dobbiamo ritornare in questo paese che chi fa il mestiere deve fare il mestiere che sa lui, insomma. Noi siamo il paese che tutti sanno il mestiere che devono fare gli altri. Io vorrei vivere in un paese normale dove si ritorni ancora come quando eravamo veramente un paese straordinario, che chi fa il metalmeccanico è bravo a fare il metalmeccanico, chi fa il ragioniere è bravo a fare il ragioniere, chi fa l'imprenditore era salutato e rispettato, ma se era il caso di difendere parti diverse, perché lui faceva l'imprenditore e io facevo l'operaio, ci trovavamo e discutevamo di interessi Chiarissimo. Diversi. Lei dica, separiamo e ciascuno faccia il suo mestiere, però Daniele Marini, bisogna essere precisi e onesti, Daniele Marini, illustrando i dati della sua ricerca all'inizio della trasmissione, ci ha tenuto ad osservare infatti che la sua opinione nel raccogliere i dati negli anni e nell'interpretarli era che non fossimo in una condizione nella quale dall'impresa veniva l'empito, l'afflato di dire levatevi che adesso arriviamo noi e mettiamo dei nostri. Diceva, quello che si vede nella pur evidente, rilevantissima delusione è fateci vedere una buona politica, quindi non era l'impeto di chi diceva facciamone a meno della politica. Questo Daniele Marini ce lo ha detto. Bonomi, posso chiedere un supplemento di visione d'insieme, non di interesse e non di interesse di parte? Da una parte ci sono le centinaia di reti che stanno, di impresa che stanno nascendo nel territorio, e quando lei faceva l'appello a considerare anche ad approfondire le condizioni dell'impresa e ciò che l'impresa chiede, avendo in mente questa nuova economia delle reti, secondo me coglieva uno dei punti essenziali. Dall'altra, per quello che lei vede, in chi è più capace e meglio capace di stare poi sui mercati, di fare più valore aggiunto, come ci ricordava Alfieri, perché l'impresa italiana non è tutto uguale naturalmente, e in quella parte lì ciò che si chiede alla politica che cos'è? Uno scatto semplicemente di dignità o più tecnica e competenza, secondo lei? Ci sono due segni di speranza, se posso coglierli, sia nella ricerca di Marini che nell'evoluzione rispetto a 20 anni fa. Mi permetto di segnalarli. Nella ricerca di Marini c'è una trilogia di imprese a cui lui fa riferimento, in cui bisogna sperare e contare su quel 35% di imprese che hanno preso le misure dei mercati globali e che stanno trainando il capitalismo di territorio. Dentro il capitalismo di territorio certamente sta avvenendo quello che evidenziava puntualmente Alfieri, nel senso che c'è una spaccatura tra quelli che sono connessi con le medie imprese competitive e quelli che invece arrancano in un mercato interno stagnante. Ovviamente, prima osservazione, compito della politica, compito di chi governa un sistema paese è quello di ridare fiducia in primo luogo a una dimensione di mercato interno e una capacità di competizione internazionale. Su questo secondo punto invece passo al secondo punto, in cui, a differenza di 20 anni fa, in cui la crisi della politica si accompagnava, vorrei ricordarlo, a una delegittimazione profonda e una crisi della rappresentanza, con lei Giannino ho già discusso di questo, il 2011 è l'anno della rappresentanza, intendendosi con questo che la crisi dei soggetti intermedi, e ovviamente a questo punto sono i soggetti che fanno rappresentanza che prendono voce, il presidente di Confindustria Vicenza è lui che si occupa di questo, è lui che incomincia a porre i grandi problemi, ma faccio una notazione, è successo un fatto, anche questo non raccontato dai giornali generalisti e solo anche qui dal Sole 24 Ore e non so Italia Oggi, che per la prima volta tutte le associazioni di rappresentanza delle imprese, dico tutte, la Confindustria, Rete Imprese Italia e udite udite le cooperative unite tutte quante assieme, sono andate a Bruxelles a rinegoziare cosa? A rinegoziare Basilea 3. Dicendo guardate che i veri grandi problemi per l'impresa è incominciare a rinegoziare su questo terreno, quindi abbiamo un sistema della rappresentanza che si è posto i problemi e che incomincia a mettersi in mezzo tra la separazione tra imprese e politica. Io credo che questa sia la strada giusta, sempre continuando ognuno a fare il proprio mestiere, le imprese, i soggetti della rappresentanza, la rappresentanza vera e la politica, la visione e il governo, e si spera senza fare leggi che sono d'accordo, che stravolgono la certezza del diritto, come quelle che lei ha citato poc'anzi. Io sono molto d'accordo con questa visione e attenzione, io non vorrei che alcuni in ascolto equivocano, vedo gli sms che arrivano, cosa vuol dire? State dicendo che ci sarà una pressione crescente per dire che saranno poi Confindustria che a questo punto rientra? No. Quando Bonomi fa il discorso sull'importanza che la rappresentanza assume nel deficit di decisionalità e di consapevolezza della politica, fa un discorso che non è di antipolitica, ma è di costruzione di capitale sociale, capite? Cioè quando Rete Italia tutti insieme, e questa è stata l'innovazione dell'ultimo anno e mezzo, quando Confindustria, i sindacati trovano... Pensate a che cos'è stato in due anni il cambio delle relazioni industriali nel nostro paese dall'accordo interconfederale di inizio 2009 a quello con la CGIL anche che firma per le intese aziendali. Ecco, c'è responsabilità da parte di chi deve fare rappresentanza. Questo è uno delle distinzioni, secondo me, basilari anche rispetto al 92. C'è un paese più maturo di allora, meno sbandato, come devo dire. Poi attenzione perché le divisioni della politica a questo punto rispetto alle mancate soluzioni possono incitare il paese a sbandare. Questo è ciò che mi preoccupa di più. In un paese che cresce così poco, se la politica tenta di regolare i conti facendo appelli al paese a sbandare, indicando nella controparte il vero problema, allora io inizio a preoccuparmi. E allora chi ha responsabilità dal basso dovrà, lo dico fin da adesso, essere pronto anche a raccogliere le firme per candidati con schieramenti e cose nuove. Questa è una cosa diversa, non significa essere antipolitici, significa credere che la buona politica si fa anche con la rappresentanza e che soprattutto quando i problemi dall'alto non hanno soluzioni, allora è dal basso che si cambia un paese e si dice nel rispetto di tutti, basta così, ne abbiamo avuto abbastanza. Grazie a Daniele Marini, a Marco Alfieri, Aldo Bonomi, a Roberto Zuccato, a Lina Giornale Radio, appuntamento a domani. Yeah.